maschili ce n'erano due labrador, due, un maschio e una femmina. Sono eccezionali come cane. Avanti Gianfra. Sì, piuttosto, sempre nell'argomento che hai preso, è una cosa che io non ho capito. Adesso quando il cane fiuta dentro la macchina che c'è qualcosa e quelli te la fanno a pezzi, tolgono sedili e ti aprono le fodere e così via, nel caso poi risulti che magari la droga c'era prima e adesso non c'è perché ovviamente magari ha lasciato l'odore e quindi non ci sono prove, come fanno a rimontare la macchina? Perché io ci ho provato a smontare la macchina per installare radio eccetera, ma poi ti si rompe sempre qualcosa, figurati a quelli rimane probabilmente mezza macchina disintegrata. Quindi io l'ho visto a Napoli, io l'ho visto su un tir e ti posso assicurare che le hanno smontato in strada, ma non smontato, proprio fatto a pezzi. No, non toccano niente, una volta che i cani fiutano e continuano a fiutare, continuano a abbaiare, cioè ti stanno dicendo apri, smonta che qua, intervengono i meccanici della sede, la Guardia di Finanza, polizia, eccetera, chiamano direttamente, non toccano niente loro, oppure sequestrano la macchina e la portano in deposito dove c'è il meccanico abilitato per fare quel lavoro, capito? Sì, ma un lavoro proprio. Giafra, sì. C'è da dire una cosa, il 90% degli interventi che fai, te lo dico con certezza perché ho amici che fanno tutte queste cose, sanno già cosa c'è dentro. Il cane sì, per piccole dosi, cose così, quando c'è qualche passeggero, però quando entrano nelle macchine, loro sanno già, investigato, e sanno già che anche dentro quella macchina c'è roba, lo fanno arrivare, lo fanno portare, c'ho tutti i collegamenti, te lo dico con certezza. Il 90% dei casi quando aprono di lì è perché sanno che c'è roba dentro. Sì. Sì, hai visto la discoteca di Antonio? Ce l'ho vista, che cos'è? Di Serra Nera, cos'è? Un biblo. È un fatto, Sì, particolari che hanno già le informazioni, tipi, poi ci sono anche, conta molto anche l'effetto comportamentale della persona. Che devi fermare, capito? Se ne accorgi subito, una volta che ti fai anche tu il fiuto, lo guardi in faccia e dici questo non è una conta giusta, capito? Dopo un po' di anni di esperienza vedi subito di cosa si tratta, quando inizia magari a sudare, a gittarsi, e allora è fatta, puoi andare a colpo sicuro. Chiami i cani perché ti confermino quello che fanno. Mi è capitato ad esempio ad Olbia, quando ero in servizio lì, sono entrato nel trasporto insieme alla Guardia di Finanza e c'era un bellissimo cane lupo, cata che mi ha saltato addosso, ha fatto guà, è iniziato a abbaiare, si è a ridere, però ovviamente non mi hanno requisito niente, capito? Già lo so, altre volte il cane, altre volte hanno questi momenti qua, però quando vanno a prendere già sono sicuri, quando ti smantellano la macchina già sanno dove entrare, poi in posti, ma c'è gente specialista che le fa apposta, le porta in officina, io ho amici che l'hanno fatto questo lavoro, colleghi, portano la macchina, smantellano tutto quanto e sanno quando aprono cosa c'è dentro. Infatti, figurati che ho visto un filmato stamattina, guarda caso, che stavo inseguendo un sommergibile pieno di droga, perché sull'America, no, quando portano la droga lì in Florida, eccetera, sono queste specie di sottomarini che vanno, e l'è saltato sopra lì l'addetto della Marina, che ha toccato nel portellone del sommergibile, a pelo d'acqua, apri! E provano a aprire, già ho visto anche io quel video, c'era pronto la mitragliera, pronto. Non so se ti conviene scappare. Oh, con una calibro 20 lo riduce ancora a brodo. ma ne fanno più di una volta a me di queste cose, di questi contrabbandieri di droga eccetera. Più di una volta li costruiscono, vanno nei fiumi brasiliani, colombiani, e poi escono nell'oceano, li costruiscono di lì, fanno ma dei lavori ben fatti, cioè modificano delle imbarcazioni, le trasformano, ci mettono motori, e lavorano quasi a pelo d'acqua, camminano, perché sono un po' sovraccaricati, non so come fanno a regolare, con delle casse forme li riempiono di acqua e rimangono a mezzo pelo d'acqua, non c'è bisogno neanche di scendere in profondità, però qualcuno l'hanno beccato, infatti ho visto anche io quel video, ecco, in cursuri non le visti, si sono saltati sopra, ferma, stavano cercando di scappare, poi a vedere si sono fermati. Sì, no, li buttavano fumogeno dentro e erano fatti. E in America non è come da noi, se ti bloccano per droga ti hanno un paio di anni, lì che ti hanno l'ergastolo. Sì, quindi c'è poco da aspettare, devi stare attento anche che non ci finisci da innocente in galera, a volte. Perché una volta fatta buttano via la chiave e chi si è visto si è visto. E purtroppo, come è capitato a quell'italiano era, che l'hanno liberato l'altra settimana, era lì, ma no, non si sapeva se era innocente o colpevole questo cristiano, perché in effetti non c'erano prove, lo hanno sicuramente incastrato. Ti prendi Claudio? Vabbè, però come dice Roberto, quando partono a fare queste operazioni, secondo anche me sanno già tutto, perché c'è un movimento di gente allucinante. Io mi sono trovato in mezzo una volta ad Olbia, stavo uscendo dall'aeroporto perché ero in servizio lì, avevo fatto il giro delle poste entrate all'aeroporto, che abbiamo lì un impianto, e mi sono trovato in mezzo, mi sono passato questa macchina civile, un punto blu, con la peggiante mi ha messo la paletta subito a fermarmi, e dall'altra parte, proprio da davanti a me, ne sono arrivati altri 4 e hanno bloccato un tir che era appena partito, si era appena messo in movimento, bloccato, capito, hanno fermato tutti quelli che praticamente erano nello stesso movimento del tir, io proprio a 20 metri mi stavo mettendo in coda, mi hanno bloccato, mi hanno detto di fermarmi lì, e gli altri che stavano entrando dalla parte dove il tir stava uscendo li hanno bloccati tutti, e hanno messo 4 macchine davanti, sono scesi, chiaramente non è che si è visto molto, però era già tutto progettato, capito? L'altro giorno hai visto che è successo qua? L'hai visto il campetto di skateboard che c'è a Carbonaro? E quale? L'hai vista la chiesa, di fronte alla chiesa, prima di arrivare ai campi della San Paolo, non c'è sulla destra, andando verso casa tua, da casa mia verso casa tua, sulla destra non c'è quella specie di recinzione, c'è un coso di skateboard che vanno tutti i ragazzini a fare. Sì. L'altro giorno, che giorno è oggi? Venerdì? Ieri, stavo andando a prendere le pizze, a ritirare le pizze, le avevo prenotate, anzi da fare nelle macchine, stavo camminando e c'erano proprio di lì, stanno arrivati veloci, vigili il fuoco con l'autobotte, la patetta con 2 metri, e sono scesi, mi sono fermato, che è successo qua, perché era tutto buio, e sono scesi i vigili correndo, i vigili del fuoco, dentro hanno preso la tronchesa, mi sono fermato, stavo guardando, ho preso una tronchesa e mi hanno tranciato il lucchetto dell'ingresso di lì dentro, detto che qua anche tu non si deve essere ammazzato, detto, per far venire i vigili, poi arriva l'ambulanza veloce, immediatamente, sono arrivati quasi in contemporanea, entrano dentro, l'ambulanza prima era fuori al cancello, poi l'hanno fatto entrare dentro, ho detto a mio cognato, ma che è successo? Aspetta, ha chiamato e mi ha fatto sapere che dice c'è entrato un ragazzo giocando, non so se era tu, il ragazzo si è truccato qualche gamba, qualcosa del genere, non riusciva più, ha saltato il cancello, non riusciva a uscirne, e ha chiamato il 118, il 118 non poteva intervenire, allora hanno rotto il lucchetto e l'hanno fatto entrare. Tu si impari la notte a entrare in nascosto. Sì, ma lì c'è, quello è stato fatto per l'estate, penso che sia un gestore che gestisce l'estate pieno di ragazzi che giocano con questi skateboard, ci sono anche delle manifestazioni, delle gare eccetera, ed inverno è chiuso, e invece è sempre pieno di gente perché scavalcano e entrano dentro, capito? Quindi non le posso dire ben lì sia, però queste cose non si fanno, spezzo, questo poteva andare anche peggio, si truccava la morale del conto e rimaneva in chivi, se non poteva chiamare nessuno. Luca, ci sei? Vieni un attimo per me, scusate. Sì, vai Gianfranco. Sì, Claudio. No, a me era capitato invece parecchi anni fa, quando c'era il nostro collega, no, te lo ricordi, Gaetano, che era lì alla mobile, e era a Platamona facendo allenamento in bici, e l'ho visto con un altro civile che era fermo, ho detto, che sta? Beh, cosa ci fai qua? Lavoro, così circolando. Io sto facendo un giro di bici come al solito, adesso vado verso la parte lì dei pettini e mi faccio un po' tutti. Vabbè dai, quando ci sentiamo, già ci sentiamo alla radio. Sono andato e sono arrivato dove? Al terzo, dove c'è quel villaggio, come si chiama? Villaggio grigio, villaggio tosco, boh. Ero lì dentro, che oramai avevo finito, e comunque vedevo auto, dicevo, queste auto io le conosco. Questi sono colleghi di Gaetano, ho detto, diciamo 4 o 5 sempre girenti a tondo. Alla fine ho preso la bici, l'ho smontata, la stavo mettendo nel cofano. Gaetano, metto la macchina sul cofano, ti fai questo appunto che me ne entra di colpo, un altro po' e mi si muove il rotto, burro. E blocca questa macchina di muso proprio, si è messa, no? Poi un'altra dietro che arriva correndo il comando e si ferma dietro, con questi tutti armati e puntano sui vetri dall'altra macchina, e ho detto, stiga, oh, chiaro, a chi puntate, non c'entro niente, che era a 5 metri da me. Quelle già sono così organizzate, evidentemente stanno tentando qualcuno, perché lì ai pettini c'è stato un periodo che girava a conca tutto andare, erba parecchia, detto proprio da gente che ha partecipato a queste restate così. E adesso pensiamo se ne smette le palle, ci siamo sentiti da poco con questa. Anzi, devo andare anche gli auguri stamattina, di buon Natale. Anche lui si è ritirato, ha fatto, ma come mai non stai venendo in Sardegna, nonostante c'hai anche la casa? Ci sta mio figlio qui, là, che mi fa, che lì, là, vai, ci mina il culo, va. Ha detto, ma mai ci hai abbandonato, che? Quindi è pensionato? Ma quanti anni ha? Adesso penso che, cioè, era più grande di noi, o no? Non so se, forse, boh, non so se ha un anno in più o un anno in meno di me, però, sai, è entrato in polizia da ragazzino, quindi poteva andare tranquillamente. Beh, sì, i miei vicini che sono tutti sempre nel suo corpo, sono di lì a, prima potevi andare anche a 54, 55 anni credo che fosse, dipende dal servizio che facevi, no? Se era molto durante. E quindi Gaetano, anche lui è andato via, anzi forse è andato via anche di tardi. Che tipo toro che era, micidiale, me lo dà porto a torre, spreteva tutto e da lì. Ma lui dove? A Salerno, se non ricordo male, no? Giusto? In quelle zone lì, non è proprio a Napoli, anzi è tra Salerno, insomma di lì, dai, verso Salerno dovrebbe essere. Sì, una città in provincia di Salerno, no, 52-55, no, 61-62 anni, adesso non me lo ricordo, no, forse un po' più piccolo di Walter, non me lo ricordo, comunque io ho lavorato parecchio. Uno degli ultimi di quella squadra lì, perché il cognato di mio fratello Antonio Monti è andato in pensione molto prima, tutti gli altri lo stesso, lui è uno degli ultimi, perché quando io abitavo in via Pascoli lui era ancora in servizio, capito, quindi 8 anni fa, lui era ancora in servizio, perciò penso che sia andato o dopo di me o forse qualche mese prima di me, due anni fa, 2 anni e mezzo fa, dai. Sì, me lo ricordo, e lui era in servizio da giovane, credo che fosse in servizio a Milano, forse alle volanti a Milano. era, però ogni tanto andavo a Milano, perché sicuramente aveva mantenuto i rapporti anche lì con la sede di Milano, e quindi lo sentivi spesso che andava di lì in quella zona per questo servizio, sicuramente anche. E quindi insomma già è stato sempre vai e vieni, capito? Beh, io quando ero arrivato da Milano ho conosciuto Piantone lì quando era in via Cogio, in via Michele Coppino, la questura, figura, faceva il Piantone lì. Poi ha iniziato a fare strada, perché è entrato alla Digos e quindi ha iniziato a fare strada. No, non è diventato ispettore, era sovrintendente capo, aveva tre stisce, diciamo, tipo maresciallo maggiore, là. Sovrintendente capo era. Ah, ero convinto che fosse ispettore. Vabbè, già. Comunque se siamo andati in pensione già sarà bene. Poi sai, anche lì quella zona io ci sono stato, ci ho fatto il suo servizio, è una zona splendida, è una zona veramente che è una cartolina. Mi ricordo quando c'ero io a Napoli, andavo a Salerno per questioni soprattutto di carburante, e c'era, avevi il Golfo, questa nave enorme che era la portaerei americana, che era a distanza lì, perché poi a coso lì, no, sono il nome, c'era la NATO, no? E noi avevamo molte delle nostre auto lì anche alla NATO, facciamo servizio la mattina presto di rappresentanza, e quindi c'era, vedevi questa portaerei lì nel Golfo con questi elicotteri andando e tornando, è una cosa spaventosa. Ed era una cartolina bellissima, bellissima. La Sardegna è molto bella, ma quel golfo è spettacolare, quindi Gaetano è andato da un golfo all'altro, ecco. No, una persona veramente a modo, poi conosceva mio cognato che era maresciallo vigile urbano a Porto, dove lo spesso in piazza passeggiare, sali, scendi. È una persona molto, molto corretta, molto attenta al suo lavoro, sempre presente per qualsiasi cosa. Io mi ricordo, qualsiasi cosa ho bisogno, lo cercavo, lui c'era sempre, anche per le stronzate, quando ho avuto bisogno del portogrammi, eccetera, e tardava, faceva qui e là. Mi ha detto, dai, tutto a me, mi arrangio io, e in giro di una settimana mi ha chiamato, vieni a ritirarti il portogallo, a firmare per ritirarti il portogallo. Allora c'era l'ispettore Belfiore, che era un testa di minchia, ma non è che trovava così molto velocemente, capito? E lui mi aveva fatto avere subito, diciamo, quello d'uso sportivo, per dire tante cose. Tanti, io ho comprato due radio da lui, quando è andato via da Porto Torres, il 275H e il 475H, i due gemellini della Icom, capito? Se mai te li devo lasciare lì, non li voglio portare, quella, la tasto centiamo le cose, ma li prendo io pure, nel caso ti servono di nuovo ce li ho io. Invece poi no, non ne ha più avuto bisogno, se l'ha ripreso lì dove lui, in provincia di Salerno, mi ricordo una città bellissima in provincia di Salerno. Infatti, io ogni tanto vedevo anche l'altro, che il suo collega, che però lui era in servizio col questore, non mi viene il nome, non me lo ricordo più, quello che c'era i capelli bianchi, che però adesso sarà molto molto anziano, anche se lo vedevo sempre allenandosi, faceva credo corsa ed era sempre in allenamento con l'uomo, in gamba lo stesso. Quell'ispettore, non mi ricordo come si chiama, anche con la pensione, è del presidente della FIMPA, del sindacato di polizia. Infatti tutta gente conosciuta quando era ancora giovane, diciamo, ecco, prima di 50 anni, però erano già grandi, sono andati la maggior parte, tutti in pensione. L'unico che è rimasto è il mio compagno di scuola, che non so se sia sia lì, come si dice, ispettore o meno, perché lui è nella Digos, infatti lo vedevi sempre, ci incontravamo quando c'era da prendere qualcuno grosso, ministro, sottosegretario, eccetera. E l'ho visto anche alcune di Cossiga, sempre armato di questa telecamera, riprendendo tutti, eccetera, della Digos. Sì. No, questo capelli bianchi, se c'è non me ne ricordo come si chiama, ma c'è forse, non lo ricordo. Nome con la M, cioè Marcello, comunque lo conosco molto bene, è ispettore superiore, quello sì, è andato in pensione come ispettore superiore ed è, non so se è presidente o segretario regionale del sindacato di polizia, a volte c'è la TV quando a Guidolina l'ho visto, anche a Rai 3, quando ci sono problemi di polizia, insomma queste cose così. C'è sempre lui, mentre l'altro invece, l'altro collega di Gaetano è quello, è Marco Spina, anche quello ispettore superiore, è andato in pensione, però era sempre a Roma ed era praticamente la guardia del corpo di Beppe Pisano, capito? Sì, sono andato un paio di volte, sempre lì alla fine di via Principessa Yolanda, dove abitava lui, per portare le comunicazioni, c'era sempre la scorta. E niente, quanti ne abbiamo visto? Che tempi ragazzi, che tempi, poi all'epoca c'era ancora anche il terrorismo, quindi allegria. Sì, terrorismo c'era sì, io quando facevo servizio alla Ginara, che andavo il mercoledì e il venerdì, era appena scappato Matteo Boi, figurati. Erano tempi tosti, quanti ne ho visto, di tutti i colori veramente. Vabbè, tutta esperienza. Ehi, vabbè Gianfranco, ne abbiamo dato, dai. Adesso largo ai giovani, vediamo un po' cosa succede, cosa vuoi fare. Vabbè, ci sei? Roberto è parito. Luca, non c'è sta nessuno? Non mi direi pegare d'oro, ma lo stanno. Cazzo, se no se lo sentivi parlare in napoletano, che sta, minchia. Non si capiva un accidente. No, io già lo capivo bene perché sono tanto un anno lì, quindi a sentire è poco zolonfi, mamma mia. Però devo dire, anche adesso è come prodotti, come cosa, c'hanno tutti, c'hanno di tutto, guarda. Tu esprimi un desiderio, se c'è soldi, lo realizzi, poi è meglio non sapere come te lo realizzano, quello sì. Vabbè, ma non è il suo caso, ti ripeto, io ho avuto molto a che fare con l'età, una persona squisita, gentilissima, di buon cuore, ti ripeto, non è di quei napoletani, poi io ce li ho in famiglia, perché i suoceri di mio fratello sono napoletani, e sono anche gente che sta bene, perché sono quelli che hanno quell'azienda molto molto conosciuta a Porto Torres, fanno molta pubblicità in TV, gente che assurda, però anche loro non sono snob, sono persone normali, sono persone un po' così, spendono e spandono, non le manca niente, le macchine grosse, ogni anno cambia la macchina, se non in due anni, la barca, la casa al mare, capito? Non si fanno mancare niente, però la gente che c'ha soldi, così viva. Se i soldi sono guadagnati onestamente, fanno bene a goderseli, mi sembra anche giusto, no? Non è che tutti i ricchi siano per forza delinquenti, sono anche quelli che sono fatti da soli con tanti sacrifici, e anche rischiando di faccione. E anche mio zio era di Napoli, tra Piazza e Sardegna, che in Sardegna poi ce ne sono belli napoletani. Infatti ero a Napoli, mi diceva sempre: ma tu sei sardo? E noi con i sardi siamo così, vicini, fratelli. E infatti qua è pieno di napoletani. Perfetto, sono persone molto, molto ospitali, per carità. Hanno un modo di fare un po' particolare, però già sono persone tranquille. Le sue cose, insomma, nel senso che hanno un diverso modo di pensare, di fare, e poi fanno i soldi dalla mondezza, capito? Fanno i soldi da tutto, inventano qualsiasi cosa e guadagnano. Ma infatti se tu prendi un napoletano e lo porti fuori di Napoli, diventa ricco, perché c'hanno molto ingegno, molta fantasia. Se lo lasci a Napoli magari prende anche una cattiva via. Sono rientrato? Ehi, io anche roba ripeti. No, niente di particolare. Ok, chi c'è rimasto? Io e Gianfranco. Luca non ha ripreso più, non so. Luca non c'è, dai, continuiamo noi allora. Di cosa stavate parlando nella mia assenza? Sono i vecchi, i napoletani stavamo parlando. Ehi, hai visto il Napoli? Adesso forse la fanno a febbraio la partita con la Juve, dai. Meglio farla subito, così si vede di che parte è fatta la Juve. L'importatore è fatta, secondo me. Adesso la prossima partita c'è Napoli-Cagliari e poi c'è Juve-Milan, ed è lì la stessa una bella partita, il 6 gennaio. Sociale da media Juve-Milan in casa, come ti dice la cultura fiorentina? Boh, vediamo un po', io sono più per il pareggio, però se il Milan fa il risultato è una delle pretendenti al titolo, perché sta uscendo piano piano e tutti, fuoco di paglia, intanto gli scontri diretti li ha tutti vinti o pareggiati. Il tuo fratello l'ho già detto, mentre sono gli scontri diretti, è proprio gli scontri diretti che la Juve perde punti, tanto li sta perdendo senza gli scontri diretti, immaginate tu quando saranno gli scontri diretti. Ma io non li sto guardando neanche più, la verità non mi interessa, ho fatto la disdetta già da tempo e le guardo solo così di sfuggita, giusto quando c'è il mio genero che porta la sua testa, io non le voglio più sapere, me la fotti nuda, forse anche su i piazzi. Avanti Gianfranco. No, io non capisco niente di calcio, cioè non è una passione che proprio mi attira. Proprio nel Napoli, tra l'altro, l'altro mese, chissà cosa, non so se c'era qualche torneo, qualche cosa. Ho chiamato il mio fornitore che è proprio lì a Napoli, o vicino a Napoli, che mi fornisce strumenti per la videosorveglianza, telecamere e compagnia cantante, ma ha attaccato questo bottone, ma anche questa di Forza Napoli con la Juve, cioè, mamma mia, guarda che io non capisco niente, no, ma tu anche tu devi dire Forza Napoli, ah, tu palle, ma ha tenuto mezz'ora al telefono con la fattura del Napoli, guarda, oi, sono dei fanatici proprio. Che i napoletani per tutto sono fanatici. Sì, ma tocca del calcio. Il calcio San Gennaro non gli toccare. Non lo so, dai. Vabbè, poi sono molto vittimisti, che loro c'hanno tutti contro di loro. Però a livello di inventiva sono numero uno. Penso che nel mondo non esistano meglio di loro. Cioè, quando senti qualcosa di strano, hanno fatto questo, la prima persona che pensi è napoletano. Sì, ci hanno fatto anche il film. Ti ricordi quelli della Banca del Buco, il tesoro di San Gennaro, un Totò. E quel film, non so se l'avete visto, Pacco, doppio Pacco e contro Paccotto, l'avevate mai visto? E di lì c'era anche cosa, ma sono vogliamo, ma c'è morto da poco. Sì, no, però non me lo ricordo quello. È contro Fagotto. Ehi, a quello l'hanno fottito tre volte. È vero, mi dice, queste cose le fanno veramente, perché io conosco gente che è stata truffata a mala grande da un amico mio che non è uno stupido, nel senso, visto sempre giochi d'azzardo, cose così, lui sempre giocando a queste cose, non dico adesso ma prima, ed è capitato, dice, quel gioco delle tre carte, cacchio, l'hanno fregato, e questo è uno di quelli attenti, ha detto, mi ha fregato come un pollo, io ho detto, è lì la carta, sicuro, e l'ha fatto piano piano, e l'ha fottito, l'ha fregato, cosa con destrezza, ho visto il trucco com'è, però non me lo ricordo, lo stavano spiegando alla televisione. E se no la gente che se n'è andata con la scatola piena di mattoni, voglio la macchina fotografica, mi guarda, non fai sta guardare, proprio, oppure il Rolex, eccetera, assolutamente originale, poi andiamo a aprire il parco e c'è un bel sasso. Sì, io lo so, ormai. Non parliamo poi di falsificazioni, di cose, che tutte le falsificazioni dagli orologi, nel senso la propria produzione, lo schema e tutto quanto, il calcolo lo fanno lì e poi lo mandano magari in Cina, in Taiwan per farlo. Le monete fanno la carta moneta, delle cose che anche chi li sequestra dice sono perfetti, cambia soltanto il materiale di esecuzione, perché tutto il resto è perfetto. Quando c'ero io di lì c'era la guerra, no? Tra la finanza e i contrabbandieri, allora si servono ancora i contrabbandieri, che poi anche noi, no, con le auto facevamo gli scemi, no? Sai come sono i reati, andavamo a tutta velocità, tiravi la frenata vicino a questi che erano la scatola di cartone, carichi di sigarette, ne volevi vedere scappando. No, spariva. che tipi veramente, guarda, cose micidiali ho visto in quel posto, cose veramente micidiali. Poi dovevo io ogni tanto scattavo l'allarme, ci chiamavano subito in armeria perché si sentivano spari, perché di fronte c'erano i fusi, no? Erano partiti dei banditi praticamente, ogni tanto qualcuno si sparava uno con l'altro, perché di lì sono un po' come a uno, no? Ci mettono poco a prendere mano alle armi. Sì, lo so, io c'ho un amico che lui era lì, e poco prima di venire qua a Sassi era lì, si è fatto tutto Lecce, Taranto, dove c'era contrabbando grosso di armi, e oltre che sigarette, di altre cose più importanti, e mi raccontava certe storie, mi ha fatto vedere delle cose, una cosa allucinante, però lo dice a Napoli, l'inventiva di Napoli era unica. Sì, è una cosa da vedere, io mi ricordo in nave, andando proprio lì, sto facendo via Civitavecchia, e mi dice questo tipo, voglio, ascolta, ma toccorre un ferro, toccorre, guarda, c'ho anche qualche bomba a mano, se la... no, scusa, bella. Ma questo è scemo, ho detto no, grazie, vai. Sì, già lo so. Vai Claudio, non c'è più Claudio. E ogni tanto si allontana, magari l'hanno chiamato. Sto guardando ancora i filmati, ma lo sai che è veramente una cosa bella questa cosa. C'ha tanti di quegli accessori, veramente micidiale. È una cosa veramente... Ma di cosa parlo? Di quella radio militare? Sì, ci sono un sacco di filmati. Qualcuno è più messa a mano dalla mia, qualcuno è migliore. Sai cosa che... queste c'hanno con la vernice verde, non militare, che non lo so se si trova per riverniciare i coperchi, anche perché non è così banale poi a smontarla, è un casotto, perché a meno che uno non è così bravo da coprire tutta la parte delle manopole nera, e allora però è un bel appento, però la fai nuova. No, i colori già si trovano, sono, c'è il verde nato, verde esercito italiano, verde carabinieri, ce ne sono tanti, noi siamo in condizione di fare tutto, sono opaco, devo utilizzare il materiale specifico, ormai si fa tutto, l'unico colore che non si riesce a riprodurre è il bianco riflettente dalle targhe nuove, gli altri colori li fai tutti, perché quello delle targhe è esclusiva come la carta moneta della Zecca dello Stato e basta, non è in commercio, lo imitano con dei colori perlacce, però è un'altra cosa, un altro tipo di materiale, mentre il colore nato, il verde esercito italiano li fai tranquillamente, esiste la formulazione. Io adesso ne approfitto, quando ero militare, no, mi davo anche i CP70, le AR eccetera, un giorno mi sono sbattuto al muro, ovviamente la macchina non si è fatta niente, e con mia grande meraviglia non fa, un altro po' ne cade il muro, però non si spacca la vernice, capito? Gli unici punti in cui veramente la vernice era scheggiata per anzianità o per chissà per che cosa, quella vernice lì militare ne usciva a scaglie, cioè era come se fosse un metallo sopra un metallo addirittura. Ma per urto, prima di anche di graffiarla ce ne voleva, che tipo di vernice era per resistere così? Aspetta, sta uscendo male. Innescando qua, no, sono vernici acrilica, è normale, non è che cambi niente, è soltanto la composizione, sono opache, acrilico opaco, non è niente di più, ci sono i poliuretanici, vernice rispetto alla vernice diciamo di veicoli normali, poliuretanico un po' più resistente agli agenti atmosferici, meno brillante, però allora la brillantezza non è tutti nuda rispetto a un acrilico di alta qualità, sono dei poliuretanici, però il materiale è un po' più duro diciamo rispetto all'acrilico normale. Sì, confermo Claudio, sta uscendo con terribile fischio. Sì, comunque le vernici militari per loro natura non devono assolutamente brillare, anzi devono essere... Ma che adesso sto fischiando? Raggi solari. No. Perché sennò il nemico ti scova subito, capito? Non sono riflettenti. Vediamo un po' Claudio se riesce a risolvere cosa è successo. Sicuramente ho toccato qualcosa io, ma adesso tutto a posto. Ma stai spingendo forte qua, ma con quella sì? Con Dark che ti ho detto. E io, ok. 50 volte so, ogni tanto c'ho qualche rientro, perché c'ho anche altre radio accese. Stavi rascando poco fa. Sto cacchio di microfono, ogni tanto. Ma la vera vuole le sostitute al DAC? Sì, meglio da 10 anni, 50 watt. È una bella radio, è la più bella di tutti probabilmente, dei baracchini base, secondo me è una delle più belle, almeno di quelle che ho visto io, è la più bella di tutti. C'è una bella ricezione, una bella trasmissione, va bene. C'è anche un'ottima valutazione di mercato, molto ricercata, diciamo è difficile trovarle in buone condizioni, però chi ce l'ha in ordine se la fa pagare parecchio. La mia è nuova di pacca, nuova, tutta l'originale, non ha un graffio, le cromature sono mai state rifatte, lucide. La valutazione che mi hanno fatto è 450 euro. Quanto un HF discreto, dai, di questi 4,40? Questo è il marchio 10 però, c'è il marchio 5, il marchio 9, questo è il marchio 10. E una domanda, che ho notato una cosa, siccome ieri ho fatto spostamenti per farci stare con l'apparecchio nuovo, il 101 Digital non ce l'ha l'altoparlante esterno? Sì, c'è tutta la linea completa, c'è anche il doppio WFO. Scusa, ho detto una fessia, non l'altoparlante esterno, il interno volevo dire, perché io per farlo funzionare lo sto facendo uscire con un altoparlante esterno, non ce n'è altoparlante dentro. Non lo so, vabbè, io lo usavo con la colonnina esterna, con quella che va da te. E quale mi ha dato a me? Quello del 940. Ah, non di linea però. No, di linea non l'ho mai trovata, però c'è anche il WFO esterno da attaccare. Ho visto le valutazioni, hai visto quanto vale quella radio? Certo che vale, io vi l'ho già regalata, però vale. e naturalmente con la sistemata accende tutto quanto, però è sorda, bisogna fare delle prove con portarla, vabbè, ma non me ne ha fatti nulla, che lo, se lo dovessi dare, che non la do, dico pigliatela così com'è, vi è piaciuta poi tutte le misure, però esteticamente è perfetta anche dietro, io siccome era molto che non la vedevo dietro quando ho spostato tutto, un bar ragione che ti pesa da 15 kg. Ah, un bar ragione sì, però è nuova, io l'avevo presa così per come d'epoca, insomma, come vintage, c'avevo quella, la linea Unide 2020, avevo la linea di Kraft, la linea Drake, poi avevo l'altro 101 ZD, poi le altre tutte, capito? E quella l'ho fatta a te, perché ha detto tutti, piaceva, tutto a piglia a dire, usiamo i vostri. Però non l'ho mai, l'accendevo ma non l'ho usato mai, capito? Quindi non so dirti pregi e difetti, però non la nuova. E io quella penso che all'epoca costasse un bel di dinar, perché era molto molto ben fatta pure, c'è un sacco di malassurti. Quello fa da 0 a 30, c'è l'indicatore, è uno degli ultimi perché poi c'è il 101 normale, questo è il digital che c'ha il display a coso, a diodi luminosi rossi. Poi c'è l'altro modello precedente invece che ha solo la scala graduata. Però tutte le serigrafie, tutto perfetto, non ha un segno di usura, probabilmente chi ce l'aveva l'ha usata pochissimo, non ha un graffio con la radio. Se te l'ho detto, io l'ho presa da un collezionista e poi l'ho usata come collezionista, quindi non l'ho rovinata. Attento che quella radio non fa solo 0,30, leggi bene. C'è il VFO che si applica di linea e fa le V e le UHF. Vabbè, quello non lo sapevo, fammi leggere cosa avevi, no? FM, USB, LTTX, CW, c'ha tutte le bande, aspetta. Sì, c'è, poi c'è la possibilità perché c'è 16, 11 metri, CB, no, 11 metri, poi c'è 4 con un asterisco, poi c'è scritto 10A, 10B, 10D, boh, non so cosa sia. 10A, 10B, sono le bande, c'ha tutte le bande VARC quella radio, attenzione, poi leggi bene, c'è un commutatore dove dice esterno, interno, ok, tu non leggi, tu ti biasi, buoni chivi e boh, c'è un commutatore lì. Dove c'è interno, esterno e poi c'è VHF e UHF, c'è il connettore dietro che si applica, e quella fa anche V e U con l'altro pezzo che manca praticamente, capito? Sì, adesso sto guardando, c'è il commutatore, c'è VHF, ci sono 4-5 posizioni e poi dietro c'ha 3 antenne puoi attaccare dietro. Quindi vedi bene, già me lo ricordo. No, sicuramente, ripeto, una radio che all'epoca costava un bel di soldi. Allora, quella radio a me mi è costata, senza epoca e senza niente, mi è costata 350 euro da un collezionista, ma ti parlo di 6-7 anni fa. Eia, ok, vai Gianfra. Anche tu stai pescando, Gianfra. Sì, datemi un minuto che voglio collegare quella racca, anzi quella plasma. Eia, sempre bene, sto andando io qua con questo. Alla grande. Eia, ti aspetto un attimino, che stavo detto, perché non sto uscendo il radio, invece era in rosmetro, in postata SWR, cacchio, com'è così basso? Già esce. No, ma c'è un po' di roba, dai. Poi l'orologio, le batterie sono buone, perché ho lasciato l'impostato quando l'ho preso, quando è venuto a Sassari, domenica scorsa, questo qui. Quasi una settimana, l'ho acceso un paio di volte, ho impostato l'orologio, è sempre perfetto. Ma mi sembra che abbia una batteria a parte, oppure alimentata direttamente dalla radio, non me lo ricordo. No, stavo guardando nel manuale service, c'è una batteria a tampone, però probabilmente è nuova perché l'ha tenuta, l'ho spenta già una settimana quasi, a domani, anzi a dopodomani fa una settimana e tiene le memorie. Poi ci sono delle funzioni che non so cosa servono, questo cacchio, quando tu lì su quel display piccolino dove c'è scritto, dove c'è l'orologio, ci sono delle funzioni con delle cose graduate, però devo guardarmi le istruzioni perché non le conosco. Quelle praticamente sono indicatori di frequenza, cosa ti posso dire? Tipo dei super memorie, una cosa del genere, praticamente, una cosa del genere. Tu metti, per dire, sei 40 metri, metti 40 metri sul display normale, poi ti metti metri lì 27.085 PG AB e ti va direttamente a 27.085. Sì, l'ho visto, poi c'è questo tasto che ti appare questa scritta VBT e c'è una cosa di contante graduata con un coso centrale, non so cosa serva però. Quello, se stai attento, quando noi giriamo quelle, mettili il grafico, quando noi giriamo quello sintonizzatore che hai toccato tu, che stringe e allarga, lì ti fa vedere come stringe e come allarga. Sì, non la conosco, ti ripeto. Vabbè, te lo sto dicendo io, è giusto per darti una linea, te lo fa vedere anche nel grafico. Ehi, allora carina, dai, diciamo, altre volte ho letto che questi display si rovinavano, ma ho visto tutto funzionante, sono tutte anche quell'indicatore sotto la frequenza, c'è una barra che va da 0 a 1000 per i kilohertz, anche quella lì perfettamente, tutte le spie funzionano tutte, l'hai visto, abbastanza in ordine, non è neanche consumati i tasti, sono abbastanza buoni. Vabbè, su quella radio a me mi ha fatto un intervento Fabrizio, ma delicatissimo, spero non ti ci bruci mai quella lampadina del grafico, perché è un casino, è un LED, non so se è una lampadinetta, lui aveva messo il LED, non lo so, ma deve smontare tutto il frontale, aveva fatto un lavoro pazzesco Fabrizio, ne ho fatto un intervento proprio su quella radio lì, sul 940. Sì, ma le immagino, poi ho visto le fotografie smontate, in epoca di roba, adesso una radio del genere è inconcepibile costruirla, costruirebbe tre volte un 7008, perché c'è un sacco di componenti, che adesso con un integrato fai tutto quello che ti fa questo, 50 componenti. Lo so, vediamo un po' Gianfranco, poi io vi lascio che vado a portare il cane. C'è anche la ventola, poi ho visto qua questa roba. La ventola, per forza ce l'ha. No, perché non si vede, dietro il dissipatore, i gruzzi, l'ho visto smontato, perché nel servizio c'è proprio come si smonta tutto quanto, ma il 440 c'è lo stesso la ventola? Certo che c'è. Adesso chiamate di voi, mi ricevete? Che è, Gianfra, tu sì? sì, come si sente? Bene ti sento, con quella stai uscendo? Con quella radio, con la radio militare. Mi sto andando, in loco, credo che ci abbia un watt, mezzo watt in AMV. No, sta andando benissimo, va bene, il segnale è molto forte. Si sente chiarissimo, di norma queste hanno quella voce un po' telefonica, no? Tipica di queste radio. In trasmissione assorbe pochissimo, neanche un 84 mA. No, la radio è diversa dall'altra, un pochettino più gracchiante, la sento, ma è chiarissima, va benissimo. Sì, anche la recessione è spettacolare, sì, è notevole questa radio veramente. Peccato che adesso l'ho vista bene, vuole proprio restaurata, vuole verniciata, solo che ogni appento. E poi è pesante, anche pesante. Questa roba, cioè quello che dice, che ti dicevo, la scaglie, cioè non esce, non la graffi, se la tiri sembra che sia plastificata quasi. Vabbè, ci sono anche quelle vernici epossidiche, però sono fatte che è tipo una pellicina plastica, dai, sono delle materiali diversi, antiabrasione, che le usano molte volte per i prodotti che vanno tipo concerti, cose così, amplificatori da concerto, casse, hanno questi prodotti che sono gommosi, dai. Sì, provo a commutare in alta potenza, vediamo cosa succede. Ci provo, vediamo un po' com'è. Prova, mi sentite? Ha cambiato qualcosa? Sì, è già un grido. Di 20 dB si è salito. Claudio, per te com'è? No, è più 20, sì. Amici di anche 2 ampere. Eccezionale, hanno fatto miracoli su questo radio. Come 2 ampere con 50 watt? No, massimo arriva a 25. La Maria ne assorbe un pochettino di più di cosa. Quando è al massimo. Ma adesso sta andando meno di un watt ed è a 0,84 in trasmissione. Ma tieni presente che sono progettate per funzionare pochissimo perché sono a batteria, capito? È uno spettacolo, deve essere in 40, in 80 metri questo affare. Sono detto, c'ha solo USB, non LCB. Oh ragazzi, io mi devo allontanare, ci sentiamo dopo con la porta del carro, ok? Ehi, claro, intanto anch'io tra poco stacco, dai, che sono un po' stanchino, ieri notte ho fatto tardi, e non ho riposato neanche un po' pranzo, un pochettino, è tutto un interrottamento, dai. Buona passeggiata col cane, dai, se coincide ci sentiamo dopo. Ciao Claudio, se non ci sentiamo ancora voi, alla prossima. Se prendi roba. Comunque si sente bene, che microfono sta utilizzando? Il suo originale o qualcos'altro? No, no, è il suo originale. È un microtelefono con senza spirale, c'è un cavo direttamente con attacco militare all'apparato. Infatti è una cosa che mi ha sempre meravigliato. Non hanno utilizzato il cavo spiralizzato, è un cavo normale, cornetta ma tipica militare. E questo cavo si vede che è di qualità, perché nonostante l'età è intatto praticamente. Ma fa microfono con l'autoparlante anche, cioè fa l'autoparlante anche il microfono? Sì, sì, tipo telefono, però con una cornetta che ha un ottimo volume volendo. D'altronde queste radio, lo sai, no? Non devono dare la voce a tutto volume, perché lavorano in un ambiente ostile, quindi la deve sentire solo che sta parlando e basta. No, no, la radio è bella chiara, pulita, molto naturale, un po' di petto, un pochettino gracchiante, ma gracchiante forse perché è il tipo di equalizzazione che c'ha con la radio lì, però la cosa va più che bene, è perfetta. Sì, queste sono radio fatte per capirsi, no? Non sono fatte per... Se dall'altra parte c'è un'altra di queste si devono capire perfettamente, perché da queste radio allora dipendeva la vita delle persone, quindi sono a prova di cannonate, ecco. E in alluminio il coperchio. Un po' pesante come radio. Guarda, se penso che un soldato se lo vuole mettere a spalla, più dovrà portare l'armamento tradizionale, tipo fucile, con munizioni e in più lo zaino anche eventualmente con la tenda o gli accessori della radio. Proprio a senso lo potrò fare questo lavoro. Io già posso levarla, me ne farà dare mazza. Che? Cos'è il tuo fischio? È uno che sta fischiando sul canale di accento. Stato addirittura qua. Cosa volevo dire? Ma cos'è marchiata? Chi la fa questa radio? Dove è prodotta? Era prodotta dalla Klassmann. Klassmann che è una ditta inglese che fa solo roba militare. Non so se poi sia stata assorbita dalla Racal. UK RT 320 transmitter receiver radio 5820/99/114/3188 seriale numero eccetera eccetera 7911, non so, PLA 7911, una cosa del genere. Che anno è con la radio? Buonasera. Anni 70, sicuramente 70-80, esclusivamente uso militare. Ah, tipo che c'ha proprio il colore militare, c'ha? No, no, non è che c'è il colore militare, è proprio militare, per uso militare, c'erano i corpi speciali inglesi, i SAS, Series Air Squadron, il cosiddetto reggimento. Come mai l'hai procurato? Mi hanno venduti, cos'è? Sono in vendita anche ancora, perché erano in magazzino evidentemente e oramai per i servizi militari non vanno più bene. È un HF, va da 0 a 30 credo, quindi è un HF a tutti i livelli. Ah, sto guardando, non ho capito però dove indichi la frequenza, ci sono 6 manopoloni sopra e uno più grande centrale, così è già... No, se tu guardi tutte le radio degli anni 70-80, c'hanno tutte, anche quelle fabbricate in Italia, negli Stati Uniti, c'hanno una prima manopola che è manopola di banda, quindi c'è, che ne so, da 12 a 16, da 16 a 30. E una volta identificata la banda dove tu devi andare, c'ha la manopolina megahertz che ha tre scatti qua, che è 1, 2 e 3. Poi c'ha la manopola 100 Hz, 10 Hz, kilo Hz e poi l'altra non la vedo, però sono tutte a 10 numeri a commutatore. Sì, sì, no, ma è questa proprio la radio, infatti sto guardando sotto. Poi allora c'è il manopolone che è tipo una farfallina, diciamo, fatta con due cose, che c'è scritto 21 49 77 12.2, poi sotto c'è megahertz, kilohertz, eccetera eccetera, e poi c'è un tastino dove c'è scritto AM, CW, SSB, CW, N e frequenza check, poi gain sotto, e questa è l'antenna, poi c'è un altro tasto, c'è scritto off, antenna, LPMP e batteria check. Sì, esatto, c'è la contatto dell'antenna, volendo, con cui tu puoi regolare la stazionaria dell'apparatto. Sì, lo sto guardando, tune, sì, sì, è proprio questa la radio, stai dicendo tu, c'ha delle specie di baffetti protettivi, tutta in alluminio verde, c'ha queste specie di linguettine verdi che escono così per proteggere le manopole. Sì, esatto, qua c'è adesso matricola, una cosa da 10, da meno 10 a 20 c'è scritto, oscillatore seriale, e c'ha tutti i numeri, poi c'ha più 30, boh, 30 gradi centigradi, poi cosa c'è, adattatore carrier 5120, anche i colori, è tutto seriale, guarda, tipicamente militare, lo sai, sono fissati con i seriali, e zeppa di seriali. Ma questa è la Radio Su Plus, l'hai presa tu? Sì, tanti anni fa, sì, sono Radio Su Plus. Sì, no, diciamo che ci sono tanti appassionati di queste radio militari, ma la cosa buona è che è funzionante, la stiamo ascoltando, per cui va bene. No, io ne ho diverse di radio di queste, però ho dei barrasoni anche grosse. E tu l'avevano dato anche regalata una bella telescrivente, però diciamo un server per attaccare le telescriventi, poi si attaccava. Vabbè, sembra una cosa di fantascienza, degli anni, penso degli anni 60, anni 70, una bella cosa. Se capita già te lo faccio vedere, solo ci vuole spazio per queste cose. Poi la roba militare mi è sempre piaciuta, però mi piacciono più le cose più recenti rispetto a questa. Questa è già, diciamo, anni 60, secondo me, questa cosa. Dopo, dai, non proprio 60, fine anni 60, quando hanno iniziato il transistor a funzionare, a mettere in commercio il transistor. 70-80, fino agli 80 è stata usata, per dire, nella guerra delle FARC, questa, quindi in Argentina, quando c'era la guerra con l'Inghilterra e gli argentini, questa radio è stata protagonista, perché la portavano a spalla, ci sono anche le foto, per comunicare con le navi, con gli aerei, eccetera. C'era anche Antonio, vediamo gli auguri, avanti Antonio, se ci sei. E capa, grazie degli auguri, grazie. Sarebbe bello vederla, sarebbe bello, su internet. Guardi molto il telefono. Guarda, là ci sono tanti filmati in cui la utilizzano, si chiama, come ti chiami, 320... Classman RT 320. Interessante, soprattutto le strumentazioni, uno che vuol farci un piccolo appassionato, qualche laboratorio senza spendere cifre esorbitanti, ci sono degli apparecchi fino agli anni 90, inizio anni, fino a fine anni 90, ci sono belle belle bestie di apparecchi che costavano migliaia e migliaia di lire, che si chiama di euro, allora magari erano ancora lire, c'erano stati milioni. Adesso sto già iniziando a vedere qualche cosa di apparati più recenti, ho visto degli AES, ho visto la Kenwood, degli apparecchi Kenwood, di ricevitori, eccetera eccetera, diciamo degli anni 80 e cose così. C'è qualcosa di interessante, mi piace quello lì, poi che è appassionato ai militari, c'è di tutto, dalle borracce ai coso, alle tende da campeggio, i contenitori di tutti i generi, eccetera. Ok, io mi allontano un attimino, dai, ci sentiamo dopo, proseguite voi. Ciao Antonio e ciao Gianfranco. Sì, ok, Roberto. Comunque non cercare roba militare tra quale marche, già lo sai, le marche militari quasi nessuno conosce i nomi, insomma, non è certo Iaesu, non è certo Kenwood, neanche Ico, che le fa sono altre case, la Raytheon, credo che per fare là ci sia anche la Boeing addirittura, quindi sono ben altre case. Avanti Antonio! K, pensi che lo scrivo, come devi dovrà scrivere per il cellulare adesso in mano? Prova a mettere Classman RT 320 e ti appare subito perché è abbastanza famosa, ci sono tanti filmati anche su YouTube. Eccolo! Qui ce n'è uno, ce n'è. Infatti questa te la devi mettere a spalla, farti 20 km in massimo un'ora e mezza e dopo di che tornare indietro. Cavolo, è tutta strana come radio.